giornale radio del Friuli Venezia Giulia. PNRR è corsa contro il tempo. Il presidente Fedriga parla di problema strutturale del paese nella realizzazione delle opere. In regione manca il personale per redigere e mandare avanti pratiche e progetti. Ieri riunione della cabina di regia che sovrintende all'impiego dei quasi 2 miliardi ricevuti. Preoccupazione per la lievitazione dei costi. Pediatri già sotto assedio, eppure il picco dell'influenza è ancora lontano. Sono pochi e ognuno segue molti assistiti. E così, a causa dell'allungamento dei tempi d'attesa, tante famiglie si rivolgono agli ospedali anche per situazioni non serie. A Udine, dopo 26 anni, si è moderna e si trasferisce al reparto di ostetricia del Santa Maria della Misericordia. Spazi raddoppiati per avere più comfort e privacy, nuove aree ambulatoriali e sale operatorie, possibilità del parto in acqua. Lo spray all'acqua di mare abbatte i tempi di negativizzazione dal Covid-19. Il risultato di una ricerca condotta da due studiosi, uno dei quali dell'Università di Trieste. L'ultima stretta di mano fra il presidente Mattarella e l'uscente sloveno Borut Pahor. Ieri il capo dello Stato sloveno è stato ricevuto al Quirinale per una visita di commiato in cui sono stati ricordati passaggi simbolicamente più significativi compiuti dai due presidenti. Allarme dei sindacati degli agenti di custodia sulla situazione al carcere di Tolmezzo. Il penitenziario di massima sicurezza ha una quarantina di detenuti in più e lamenta croniche e pesanti carenze d'organico. Sport. A Cividale domani un evento storico per il basket regionale, un derby tutto friulano in Serie A2. La Gesteco riceve Apu Udine, il palazzetto dello sport registra già il tutto esaurito. È martedì 6 dicembre 2022, sono le 7:20. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica, il cielo è coperto e queste sono le temperature registrate alle 7. A Trieste 9 gradi, a Udine 7,5 gradi, a Pordenone 6,5, a Gorizia 6, a Tolmezzo 3,5 gradi, a Forni di Sopra 5 decimi di grado, a Tarvisio meno 1 grado, a Sappada meno 2,5 gradi, sul Piancavallo meno 2, sul Monte Lussari meno 5, sullo Zoncolan meno 5,5, a Grado e a Lignano 9. Ed ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi di primo mattino sarà possibile nuvolosità residua, specie su bassa pianura e costa e sulle zone orientali. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa. Nelle ore notturne sarà possibile la formazione di foschie o nebbie sulla bassa pianura e localmente anche nei fondovalle più interni. E a causa del maltempo di ieri, la squadra della Protezione Civile di Tramonte di Sotto è intervenuta per mettere in sicurezza la viabilità che dal lago di Redona conduce alla borgata di Campone, dove era caduta una frana. La strada verso la borgata è stata chiusa ieri sera. Nel corso della giornata di oggi è prevista la messa in sicurezza e la riapertura al transito. In via precauzionale, per evitare che vetture rimanessero bloccate dalle acque, nel comune di Premariacco è transennata la strada di accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons di Remanzacco e Premariacco. Carenza di figure tecniche, scadenze strette imposte dai ministeri e il circolo vizioso generato dall'aumento del costo delle materie prime che incide sulla completa copertura delle opere. Sono i problemi principali che anche il Friuli Venezia Giulia si ritrova per impiegare i quasi 2 miliardi di fondi europei del PNRR. È una corsa contro il tempo e la parte più difficile viene adesso, la fase di attuazione degli investimenti per quasi 1,780 miliardi, fondi previsti dal PNRR per il Friuli Venezia Giulia. Le opere devono partire con la progettazione per assicurare che il cronoprogramma si svolga senza intoppi, ma non mancano le criticità confermate. La nuova riunione della cabina di regia regionale presieduta dall'assessore alle finanze Barbara Zilli e cui ha preso parte anche l'ANCI Friuli Venezia Giulia. Tra gli ostacoli, la mancanza di personale negli uffici tecnici richiamata dal presidente dell'Associazione dei Comuni Dorino Favot, che ha posto l'accento anche sulla complessità dei bandi ministeriali e i tempi stretti per aderirvi, ma a preoccupare di più è lo scoglio dell'aumento dei costi delle materie prime, ha sottolineato ancora Favot, che ha chiesto alla Regione di intervenire. Guarda con preoccupazione al problema anche il presidente regionale dell'Associazione Costruttori, Roberto Contessi. A suo avviso i costi aumentano tra il 30% e il 50%, senza contare la carenza di manodopera nei cantieri. Per Contessi l'unica strada praticabile indispensabile stabilire delle priorità, a cominciare dalle scuole, poiché i fondi che arriveranno non bastano per tutti gli interventi, afferma, e visti anche i tempi stretti per l'esecuzione dei lavori, scadenze e progetti sono a rischio, aggiunge. La Regione sta facendo la sua parte, ha assicurato Zilli, che ha chiamato a raccolta nei prossimi giorni la comunità tecnica regionale per trovare risposte ai problemi. In campo ci sono già 6 esperti informatici per velocizzare l'iter digitale, mentre dalla cabina di regia nazionale, ha ricordato Zilli, il presidente Fedriga sta facendo pressing per ottenere le risorse in più che servono. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. L'influenza stagionale non è arrivata già al picco, ma i pediatri di libera scelta sono stati già presi d'assalto da telefonate e richieste di visite. Sono pochi, hanno molti assistiti e questo produce un allungamento dei tempi di risposta. Conseguenza, a Trieste l'intasamento anche del pronto soccorso dell'ospedale infantile Burlo Garofolo. Muco nelle orecchie, cosa intende con muco? La temperatura era 37,1? Le segretarie impegnate a far da filtro alle richieste di visita, costrette a volte anche a rassicurare i genitori e a insegnare loro la base delle prime cure. Se è attiva, sta bene, eccetera eccetera, la tachipirina Nurofen si dà sopra i 38,5. Ambulatori dei pediatri presi d'assalto da settimane con la comparsa delle prime virosi di stagione, il boom di accessi spesso non urgenti denunciati nei giorni scorsi al pronto soccorso del Burlo di Trieste si riscontrano anche qui. Chiara Oretti, pediatra e segretario FIMP Trieste Gorizia. Siamo anche noi invasi da telefonate, raggiungiamo la media delle 60-100 chiamate al giorno, una media di 40-50 visite al giorno, ormai da settimane. Genitori impazienti di ricevere una risposta immediata. Stiamo notando che non facciamo a tempo a prendere in carico e a richiamare le famiglie che spesso si recano già in autonomia in pronto soccorso o non aspettano comunque l'appuntamento che magari gli abbiamo dato per il primo pomeriggio o il giorno successivo. I pediatri di base, ma anche gli ospedalieri in pronto soccorso, concordano. In epoca post-Covid bisogna riabituare le persone all'attesa. Per 2 anni è stato diffuso il fatto di contattare il curante, pediatra o medico generico che sia, ad ogni sintomo, perché si doveva stabilire il protocollo Covid in quel momento. Adesso non serve più. No, non serve più, si sta cercando di rieducare alla famosa attesa delle 48 ore. Dal Burlo l'idea di educare l'utenza a leggere in modo corretto i sintomi. Stefania Norbedo, medico. Dei fumetti, un libretto, delle pillole video in cui si spiegano, diciamo, le indicazioni per venire in pronto soccorso piuttosto che chiamare il pediatra, quando preoccuparsi. E se l'influenza vera e propria ancora non c'è stata, il consiglio dei pediatri è di prepararsi a vaccinare i piccoli. La procedura è rapidissima e si fa in ambulatorio. È una siringa spruzzata a destra, spruzzata a sinistra, 10 secondi anche meno in tempo di esecuzione. Lo facciamo, lo stiamo facendo tanto, bambini sopra i 2 anni fino ai 7 anni meno un giorno. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Da Trieste a Udine, dove dopo 26 anni l'ostetrice è tornata a unirsi alla neonatologia e alla pediatria in un'unica realtà. Da visitatrice, adesso futura mamma, sicuramente mi dà un'idea di accoglienza che ci serviva, insomma. Anche le sale parto sono molto spaziose, più familiari, diciamo che la vasca, sono molto belle, ecco. Prendiamo in prestito le parole di Alice, ostetrica al Santa Maria della Misericordia, in dolce attesa, per descrivere la nuova sede di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Udine. Spazi raddoppiati per avere più comfort e privacy, nuove aree ambulatoriali e sale operatorie, possibilità di degenza in stanza singola, parto in acqua. Sulla carta un trasloco di padiglione dal 6° al 7° ristrutturato quest'anno con investimento di oltre 7 milioni di euro. Nella pratica, dal 17 dicembre, una piccola rivoluzione. Lorenza Driul, direttrice della clinica a Udine. Torniamo a casa, dopo 26 anni torniamo ad unirci alla neonatologia e alla pediatria in un'unica realtà, che è una realtà all'avanguardia per struttura, per attrezzatura e per professionalità. Nuova anche la filosofia dietro il trasloco. Da un mese è nato, in seno all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, un nuovo dipartimento, Mamma Bimbo. Vi parteciperanno tutti i presidi del territorio, dalla Tisana a Tarvisio. Il senso, è stato ribadito all'inaugurazione, è quello di stare vicini a madre e figli, sia nella fisiologia che nella patologia. L'auspicio è che strutture in grado di infondere serenità, umanizzando sempre più l'esperienza del parto, possano contribuire a frenare il calo della natalità. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nei casi lievi, l'inalazione di uno spray a base di acqua di mare riduce il periodo della positività al Covid-19. È quanto afferma uno studio condotto da due ricercatori delle università di Trieste e di Padova in collaborazione con l'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sentiamo uno dei due autori della ricerca, il dottor Luca Cegolon dell'Ateneo Triestino. L'esperimento è stato fatto a febbraio-marzo 2022, quindi in piena ondata Omicron. I dati sono stati raccolti dal Covid Point di Treviso, i tamponi, e questo è un trial clinico che ha confrontato 50 pazienti trattati con la soluzione salina ipertonica e 58 controlli invece che hanno ricevuto la terapia standard per il Covid, dimostrando, ecco, l'end point, come si dice per gli addetti ai lavori, era il tempo di positivizzazione dopo il tampone. Questi erano tutti pazienti affetti da malattia lieve o moderata, quindi che sono rimasti a casa in isolamento, e quelli trattati avevano una, diciamo, la durata della positivizzazione al Covid era mediamente 2 giorni più corta dei controlli. E i risultati sono risultati essere significativi. Le differenze erano significative, come si dice in epidemiologia. Allora, chi si nebulizzava questo spray risultava negativo in meno tempo. Sì, doveva farlo 3 volte al giorno, autosomministrazione, ogni giorno a casa. Si tratta di uno spray di che tipo? È fatto di acqua di mare, prevalentemente, con additivi, ma il componente che verosimilmente è responsabile dell'azione virucida è l'acqua di mare, che consentirebbe alle cellule della mucosa nasale di produrre acido ipocloroso, che è un noto e riconosciuto agente antimicrobico a largo spettro. Ecco, quali potrebbero essere le conseguenze pratiche di questi risultati? La ricaduta principale è un'arma in più per la prevenzione e il controllo dell'infezione, quindi una riduzione della trasmissione del virus. I prossimi passi sono sicuramente replicare lo studio e poi, insomma, creare consenso riguardo a questo. Ultimo incontro ieri al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor, che fra 2 settimane passerà ufficialmente l'incarico alla neoeletta Natasha Pirc-Musar. Pahor ha espresso gratitudine per l'eccellente collaborazione e l'impegno sincero nel rafforzare l'amicizia tra i due paesi. Mattarella ha ricordato la storica stretta di mano a luglio del 2020 davanti alla foiba di Basovizza e davanti al monumento dei 4 caduti sloveni. Ma sentiamo i due capi di Stato. Sul piano istituzionale ci ha permesso di sottolineare e anche celebrare il percorso che abbiamo compiuto, di sottolineare e celebrare la grande collaborazione che intercorre tra Lubiana e Roma, e il percorso di riconciliazione e ancor più di amicizia tra Slovenia e Italia. Questo è stato un lungo percorso che abbiamo condotto insieme. Ho ricordato insieme al Presidente Pahor le varie tappe, l'incontro ad Oberdo, al monumento dei caduti sloveni della Prima Guerra Mondiale, poi gli incontri a Trieste e Basovizza, gli incontri a Nova Gorizia e Gorizia, capitale della cultura, l'incontro per la restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena. Un percorso abbiamo condotto insieme con grande collaborazione. Abbiamo cercato, credo, insieme di interpretare la direzione positiva del progresso della storia e anche di interpretare il senso autentico della comune appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica. Caro Presidente, caro Sergio, grazie. Grazie. Era un privilegio, sai. Grazie per me è stato. Grazie davvero. Grazie. Un supercarcere con 41 detenuti in più, una importante carenza d'organico e la vacanza da 2 anni anche del comandante. È la situazione del penitenziario di massima sicurezza di Tolmezzo, al centro ieri di un incontro alla prefettura di Udine. Per affrontare le urgenze del carcere di Tolmezzo, convocati dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello su richiesta di alcune sigle sindacali, si sono incontrati i rappresentanti dei sindacati della Polizia Penitenziaria, la direttrice del carcere, il vicecomandante delle guardie carcerarie. Ormai da tempo la casa circondariale di Tolmezzo è interessata da seri buchi di organico tra la Polizia Penitenziaria, specie nel ruolo di sovrintendenti ispettori. Da ormai 2 anni poi manca anche un comandante titolare e non solo, c'è, spiegano i sindacati, una gravissima carenza di figure primarie all'interno del carcere, ovvero ragionieri, funzionari amministrativi ed educatori. Franco Chiucchiuolo, sindacato SIPPE. Noi chiediamo un comandante titolare residenziale, cioè vuol dire che garantisca la sua presenza tutti i giorni in modo da dare continuità a quello che è il nostro lavoro. Noi abbiamo un ragioniere che andrà in pensione a fine di questo mese. Non c'è un sostituto ed è per questo che ci troviamo qui dal prefetto per denunciare questa situazione prima che possa degenerare in qualsiasi altro tipo di forma. 190 detenuti a fronte di una capienza di 149, 11 al 41 bis e 6 internati, numeri che fanno aggravare la situazione. Una struttura con presenza di detenuti in regime di massima sicurezza e 41 bis. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. È giusto ascoltarli, adesso rappresentare a livello centrale quelle che sono le loro effettive obiettive doglianze, quindi rappresentando con una lettera, eventualmente anche con qualche interlocuzione personale, la situazione di grave sofferenza e soprattutto di pericolo per le prossime situazioni che si possono creare all'interno della struttura. A breve una relazione sull'istituto penitenziario sarà inviata al Ministero della Giustizia e al Dipartimento Affari Penitenziari. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In seguito alla riunione di ieri alla Direzione Regionale Ambiente, l'assessore Fabio Scoccimarro ha comunicato gli interventi di dragaggio in ambito lagunare e marittimo previsti per il 2023, oltre ai lavori lungo i canali navigabili. Gli interventi in fase di progettazione, i cui lavori partiranno fra febbraio e maggio, riguardano il porto di Monfalcone, per cui sono stati stanziati 18 milioni di euro, il canale di accesso a Porto Buso, 3 milioni e 400 mila euro, i canali Lovato e Pantani, 1.920.000 euro, il canale Cormore, la darsena Muzzana, 720.000 euro, le darsene del fiume Corno, 480.000 euro, il canale Belvedere e gli accessi alle darsene, 400.000 euro, Porto Casoni e il canale Videra, 350.000 euro e le darsene del canale di raccordo di Marano, 235.000 euro. Movimentata seduta del Consiglio Comunale, convocato in via straordinaria ieri sera a Trieste, iniziato alle 19.30 con un notevole ritardo sull'orario previsto. All'ordine del giorno della seduta, il progetto dell'Ovovia che dal Porto Vecchio dovrebbe giungere sul Carso. Durante il Consiglio in Comune, in Piazza dell'Unità d'Italia si erano radunate circa 200 persone che contestano il progetto, ritenendolo costoso, non efficace ai fini della mobilità e insostenibile economicamente. Da mesi la città è divisa tra pro e contro il progetto e la protesta è divenuta anche terreno di scontro politico tra l'amministrazione comunale di centrodestra e le opposizioni contrarie all'iniziativa. Il Consiglio Comunale di Pordenone, che si è riunito ieri, ha rinviato la discussione sul progetto del palazzo di 12 piani che dovrebbe sorgere in via Molinari, che da settimane anima il dibattito in città. La discussione è stata aggiornata dopo che il consigliere della lista La Civica, Marco Salvador, ha annunciato il deposito di una petizione con oltre 100 firme contrarie all'opera, chiedendo che, a norma di regolamento, essa venisse discussa nella commissione competente. Annuncio che ha spinto la maggioranza in consiglio prima a sospendere brevemente la seduta e poi ad accogliere la richiesta. Una serata dedicata al tema della prevenzione oncologica, organizzata da Ivo Moras, presidente della Commissione Regionale Salute e a cui prenderanno parte specialisti delle aziende sanitarie, si svolgerà a Bruniera, all'hotel Ca Bruniera, questa sera alle 20.15. Dedicato invece alle energie pulite, alla promozione delle comunità energetiche, quali opportunità per il territorio e vantaggio per famiglie e imprese, l'incontro promosso dal PD a Castions di Strada. Fra i partecipanti il consigliere regionale Cristiano Sciaurli, alle 20.30 nella sala polifunzionale di Morsano di Strada. Si svolge oggi a Monfalcone, a partire dalle 9, il primo festival della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale, organizzato dal Liceo Buonarroti, che vede ospiti, docenti universitari ed esponenti del mondo delle imprese e prevede nel pomeriggio dei laboratori didattici nella sede dell'istituto. Ce ne dice di più Vincenzo Caico, dirigente scolastico del Buonarroti. Il nostro liceo, il Liceo Buonarroti di Monfalcone, dallo scorso anno ha avviato un nuovo percorso di studi, il liceo scientifico della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale, due ambiti molto innovativi dell'informatica che ormai fanno quasi parte della vita di tutti i giorni di tutti noi. E con questo festival abbiamo voluto da un lato celebrare l'istituzione di questo nostro nuovo percorso di studi, dall'altro far conoscere la rete nazionale dei licei scienza dei dati e intelligenza artificiale di cui la nostra scuola è capofila e dare l'occasione agli studenti e a tutte le persone interessate di conoscere alcuni professionisti che lavorano proprio in questo settore. Faranno i loro interventi insegnanti universitari, ma anche rappresentanti di aziende, di centri di ricerca. E poi nel pomeriggio i ragazzi, gli studenti della nostra scuola, ma anche di altre scuole ospiti, avranno la possibilità di sperimentare sul campo alcune applicazioni con i laboratori che saranno tenuti da questi ospiti esterni. Che importanza ha parlare e affrontare il tema dell'intelligenza artificiale con i ragazzi? Sì, c'è un grande interesse, lo abbiamo riscontrato anche durante gli Open Day con cui abbiamo presentato i nostri percorsi di studi ai ragazzi delle classi terze delle scuole medie. È un ambito per nulla, diciamo, noioso ma molto affascinante dell'informatica. La scienza dei dati e l'intelligenza artificiale, che sono in stretto rapporto l'una con l'altra, si alimentano praticamente a vicenda, ma che hanno dei collegamenti anche con le altre discipline che si studiano al liceo, ad esempio con la filosofia, perché noi trattiamo anche gli aspetti etici che riguardano l'introduzione nelle nostre vite di questi ambiti dell'informatica. Un convegno dedicato ai servizi educativi e scolastici della città di Trieste, che vantano una presenza capillare sul territorio e alcune punte di eccellenza come i ricreatori, è quello che si svolgerà oggi a partire dalle 9 alla stazione marittima, organizzato dal Comune in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all'accoglienza dei bambini. La Commissione Women Empowerment di Confindustria Udine organizza un incontro dal titolo Wonder Woman in Real Life, in cui tre imprenditrici saliranno sul palco a raccontare la loro storia di successo. Si tratta di Daria Magidi, CEO della società Daxo Group, la prima azienda italiana accreditata in Diversity e Inclusion, Diana Megias Roman, fondatrice e amministratrice delegata di Apprendo SRL, e Stefania Quaini, Managing Director di Angels for Women, la prima rete di Business Angels al femminile. Il convegno è in programma alle 18 a Palazzo Torriani a Udine. Oggi, nel giorno di San Nicolò, i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini di Trieste saranno presenti dalle 15 alle 19 al punto di raccolta di via Muratti per raccogliere doni, giocattoli nuovi e dolciumi a favore dei bambini della città ucraina di Mykolaiv. L'iniziativa è nata su proposta del sindaco di Mykolaiv, che dopo una lettera inviata al collega triestino Di Piazza lo ha ringraziato per l'aiuto finora fornito e ha evidenziato la situazione di difficoltà crescente della sua città nel contesto bellico, soprattutto per le famiglie, richiedendo in particolare un segno di solidarietà nei confronti dei più piccoli in occasione del Natale. Il Comune di Trieste ha già provveduto a raccogliere e consegnare due carichi di aiuti umanitari a Mykolaiv, uno ad aprile e il secondo a luglio, consistenti in oltre 55 tonnellate di merci, generi alimentari, medicinali, cibo per animali. Once, una volta nella vita, il musical tratto dall'omonimo film irlandese del 2006, vincitore dell'Oscar per la migliore canzone, arriva questa sera a Trieste. Al centro ci sono le vicende di un musicista di strada di Dublino che, dopo aver rinunciato alla musica in seguito a una delusione amorosa, tornerà a inseguire il suo sogno grazie all'aiuto di una giovane donna. Appuntamento al Teatro Rossetti, in replica unica, con inizio alle 20:45. Riparte oggi la stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano, con la prima assoluta dello spettacolo spettacolo Profezie, un viaggio di scoperta esistenziale con Pierpaolo Pasolini, attraverso le sue visioni profetiche, adattamento teatrale di un testo dell'intellettuale Fabio Turchini. Lo spettacolo è il primo appuntamento della rassegna 100% Pasolini, un progetto tributo che prevede una ricognizione trasversale dell'opera pasoliniana. È sempre in occasione del centenario pasoliniano, nell'ambito della retrospettiva di tutti i film dell'autore di Casarsa organizzata da Cinema Zero di Pordenone, questa sera alle 20.45 sarà proiettato Teorema, preceduto dall'introduzione dell'esperto e formatore di Cinema Zero, Paolo D'Andrea. L'imperatrice Elisabetta d'Austria è idolatrata per la sua bellezza, ma nel 1877, anno del suo 40° compleanno, deve combattere per preservare la sua immagine pubblica allacciando il corsetto in modo sempre più stretto. E questa la trama del corsetto dell'imperatrice. In occasione della European Cinema Night, il lungometraggio sarà proiettato in anteprima al Cinema Visionario di Udine alle 15.30 e alle 18.30. In concomitanza con l'arrivo in sala alle 17.45 al bistrò prima fila del Visionario si terrà l'incontro Principesse Belle e Sfortunate con Maria Bruna Pustetto e Giorgio Placereani, che dialogheranno su tre regine infelici che sono diventate personaggi mediatici in vita e dopo: Maria Antonietta, Sissi e Lady Diana. È sempre alla figura di Sissi, nei 43 anni che vanno dal fidanzamento con Francesco Giuseppe alla morte, è dedicato al volume di Patrick Poini, Ultimissime su Sissi, che sarà presentato dall'autore in dialogo con Rebecca Sandrigo alle 18 all'antico Caffè San Marco di Trieste. Ed ora lo sport, pallacanestro, domani derby tutto friulano in A2 alle 20.45 al Palagesteco, Cividale ospita Udine ed è già tutto esaurito. Un derby tutto friulano, una prima volta in campionato. Dopo la sfida di Supercoppa vinta dall'APU, Udine e Cividale saranno di fronte per una nuova pagina di basket udinese. Si giocherà al Palagesteco con Cividale reduce dalla vittoria per 2 punti sul parquet di Rimini e Clark, autore di 19 punti. Sesto successo in campionato che fa fare il pieno di autostima alla squadra di coach Stefano Pillastrini. Questo è un bel viatico per arrivare a questa sfida con Udine, che sicuramente è una squadra attrezzatissima, ha giocatori di Serie A prestati alla Lega 2, è un avversario che sembrerebbe imbattibile, ma noi vogliamo provarci in tutti i modi, vogliamo essere competitivi e vogliamo dare al nostro splendido pubblico una soddisfazione eccezionale. L'APU è per tutti la squadra da battere in A2. 8 vittorie in 10 partite, l'ultima con Chieti, trascinata da Umian, protagonista dell'ultimo quarto con 15 punti. Da qui l'aggancio in vetta di Pistoia e sfida con Cividale, che mette in palio punti davvero pesanti per la squadra di Matteo Boniciolli. Mi aspetto una partita dura, una partita impegnativa contro una squadra che in un momento di grande condizione è allenata da uno dei migliori allenatori italiani su piazza, ma noi dall'altro il nostro primo posto, con convinzioni che stanno maturando progressivamente, sono sicuro giocheremo una partita solida. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed eccoci ai giornali di oggi. La Cabinovia in consiglio, il titolo alto su una foto dei manifestanti radunatisi dinanzi al municipio durante il consiglio dedicato all'impianto di risalita, sulla prima pagina del Piccolo di Trieste. Vediamo il titolo di centropagina: stretta sui De Ors, si mobilitano esercenti e sindaci. Ogni intervento dovrà ottenere l'ok della soprintendenza. Fino a 4 mesi per le risposte, l'appello alla regione. Le pagine interne, il tema dell'ovovia fra Consiglio Comunale e manifestazione in piazza occupa le prime 2 pagine della sezione dedicata alla città. E c'è un articolo su un altro tema toccato dall'Assemblea Municipale, ecco il titolo: piano ex fiera all'esame comunale, le demolizioni slittano in inverno. Più avanti, è pronto l'omaggio della città a Maria Teresa, conto alla rovescia per l'arrivo del tallero in piazza Ponte Rosso. Il manufatto sarà caricato nel pomeriggio su un camion a Cividale, la partenza verso Trieste avverrà attorno alle 22. L'apertura del paginone culturale è per Michele Casaccia, il dottorando triestino che in un fondo bibliotecario fiorentino ha scoperto una poesia inedita di Pico della Mirandola. Ostetricia e ginecologia, ecco la clinica tecnologica, è il titolo d'apertura del Messaggero Veneto di Udine, terminati i lavori del reparto ospedaliero nel padiglione 7, che eroga ogni anno 16.000 prestazioni. Sempre in prima pagina una fotonotizia dedicata al tema dei deornei locali. Le belle arti ai comuni, ci vuole il nostro permesso per piazzare tavoli e gazebo. In alto altri due richiami. Il primo alla stagione sciistica, pioggia e temperature ancora elevate, incognita neve sull'avvio della stagione. Il secondo al mercato immobiliare in frenata, cala il numero delle compravendite. Anche le pagine della cronaca cittadina titolano sulla nuova clinica di ostetricia. Spazi più ampi e funzionali, nel 2022 oltre 1.100 interventi di chirurgia, 172 per patologia oncologica. Il titolo del dorso di Udine del Gazzettino è dedicato alle autonomie locali. L'assessore regionale Roberti: non imporremo fusioni. Lo spopolamento preoccupa anche in pianura, i piccoli comuni perdono abitanti a favore dei grandi centri. La regione avvisa: meglio condividere i servizi, ma lo faremo solo se la richiesta arriva dai cittadini. Spazio poi alla notizia del ritrovamento in Sardegna del corpo dell'ingegnere di grado e a un richiamo al basket. Tutto esaurito per il derby Cividale-Udine. Passiamo all'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. La prua arriva su strada, il titolo alto che campeggia sulla foto appunto di una prua navale. Vediamo all'interno di cosa si tratta. È il bulbo anteriore da 100 tonnellate della Princess Cruise realizzato alla Monfer. Stasera, si legge nell'apertura delle pagine di Monfalcone, con un trasporto eccezionale la mastodontica struttura in acciaio sarà consegnata a Fincantieri. Restiamo in zona, la fiera di San Nicolò non tradisce il richiamo a migliaia di persone, qui lo spirito di Natale. E vediamo le pagine di Gorizia. In apertura il cambio della guardia al comune di Nova Gorizia dopo l'elezione di Samo Turèll del Movimento Libertà, espressione del premier Robert Golob. Cambia lo scenario a Nova Gorizia. Ziberna, sindaco di Gorizia, dice: Turèll darà continuità. Questo è il titolo. Più avanti un titolo sulla sanità. Il noleggio del robot è scaduto, stop alle operazioni da gennaio. Ha permesso di svolgere al San Giovanni di Dio più di 200 interventi chirurgici. Inviata una richiesta di acquisto che però resta in stallo. Il giornale poi ci aggiorna sulla sorte dell'orso Kuma, che arrivato dalla Valle del Bipacco un anno fa fu recuperato su un albero in via Giustiniani. L'orso che vagava da solo a Gorizia torna a vivere al bioparco di Roma, pesa 60 kg, soffre di insufficienza renale e non potrà essere liberato. Il Messaggero Veneto di Pordenone titola sul nuovo edificio che sorgerà di fronte a Cinema Zero. Sarà una sala convegni dotata di bar. L'opposizione attacca il progetto, mentre è stato rinviato in consiglio il voto sul palazzo di 12 piani di via Molinar. Dopo la fotonotizia sui deor dei locali, in prima c'è spazio per alcuni richiami di cronaca. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente ATAP e, un'altra notizia, aveva in casa 63 kg di fuochi d'artificio, arrestato un carrozziere. Sul progetto del nuovo edificio si aprono anche le pagine della cronaca locale. Una nuova sala convegni con bar si teme che oscuri Cinema Zero. Avrà 65 posti ed eliminerà l'attuale parcheggio davanti alle scuole. A seguire all'interno una notizia sul tema dei rifiuti. Il sindaco Ciriani apre sul termovalorizzatore. La frazione finale va incenerita. Ci vorrebbe un impianto regionale. Le pagine pordenonesi del Gazzettino aprono sempre sullo spopolamento dei comuni e le dichiarazioni dell'assessore Roberti. Al centro c'è poi spazio per l'arresto del carrozziere di Chions appassionato di botti. Compra 63 kg di petardi in rete, arrestato 38enne. Infine una fotonotizia dedicata a Francesca Mesiano, la cantante pordenonese del duo Coma Cose. Non ci speravo più, ma torno a Sanremo. Ancora alcuni appuntamenti di questa giornata. Al Teatro Ristori di Cividale alle 21, tre ballerini d'eccezione, Ambetta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moré Gonzales, saranno protagonisti di Prelude, spettacolo in cui la danza si fonde con le musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach. Saranno presentate al pubblico oggi pomeriggio al Teatro San Giorgio di Udine le letture sceniche di Futuro Passato, Ricordare la Memoria, il progetto dell'associazione culturale Tinaos che ha abbracciato formazione e creazione per realizzare 4 nuovi testi teatrali sul tema della memoria, con il tutoraggio del drammaturgo Federico Bellini. Inizio alle ore 18. La mostra fotografica Due artisti austriaci che raccoglie scatti di Barbara Esel e Markus Wagenhofer sarà inaugurata stasera alle 18 a Trieste nella sala del Business Real Opportunity in via Val di Rivo. L'esposizione, che si protrarrà per tutto il mese di dicembre, fa parte di Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che trasforma gli esercizi pubblici e i locali storici del centro di Trieste in un'enorme mostra fotografica. Tornano le conferenze dedicate all'arte del nostro tempo, promosse dall'Associazione Amici di Pordenone, Arte Contemporanea, e tenute da Alessandro Del Puppo, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Università di Udine. Perché la fotografia è arte contemporanea è il titolo di quella di oggi, alle 18, alla Biblioteca Civica di Pordenone. In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, che si è tenuta il 3 dicembre, l'associazione sportiva Zio Pino Bashkin di Udine ha organizzato una conferenza col dottor Ernesto Gianoli, direttore della Scuola di Psicoterapia Ethos di Venezia, dal titolo «La chiave empatica nella relazione, il rapporto genitori-figli, insegnanti-allievi, allenatori-atleti, in una dimensione di genitorialità allargata». All'auditorium dell'Istituto Salesiano Bearzi di Udine alle 20:30. La tradizione della fisarmonica friulana è raccontata da Massimo Pividori nel volume Armoniche Furlane, che sarà presentato questa sera a Udine. A seguire, l'ensemble fisarmonicistico Flocco Fiori di Tarcento si esibirà in un concerto che renderà omaggio ai celebri fisarmonicisti friulani Flocco Fiori ed Enzo Bellina e al trio Pacai nei 50 anni dalla sua fondazione. Inizio alle ore 20 al Palamostre. Uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Alle 11:10 la rubrica In Friulano parlerà del contratto di fiume per il Roiello per salvaguardare un corso d'acqua che attraversa Udine e Pradamano. Dalle 11:20 Radar, il nostro settimanale scientifico condotto da Simona Regina. Sono le 7:53:50, assistenza tecnica di Viola Romanese, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Per il momento ci fermiamo qui, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza c'è il flash e quindi l'edizione delle 12:30. Vi ricordo che potete seguire gli aggiornamenti anche sul nostro sito raggiungibile all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza, buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.